24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. In primo piano la crisi economica europea e il vertice Grecia-Germania in vista del voto tedesco sul piano salvastati. Parleremo poi della messa in mora dell'Italia, che non ha ancora risolto la questione rifiuti a Napoli. Infine un consuntivo della settimana della moda a Milano, che ha visto una sostanziale tenuta del mercato europeo. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova puntata di 24 ore in Europa. La Germania è pronta ad aiutare in ogni modo la Grecia ad uscire dalla crisi, lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine dell'incontro a Berlino con il primo ministro ellenico George Papandreou. Secondo la Merkel è interesse di tutti che vi sia una Grecia forte in un'eurozona forte. Papandreou invece ha garantito che la riduzione del deficit concordata con BCE, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale non cambierà e verrà rispettata. Ad alimentare qualche polemica è stato il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, che riferendosi all'ipotesi di uscita dall'euro di uno o due paesi ha detto: non accettiamo lezioni da oltreoceano. L'armistizio della G20 non riappacifica le due sponde dell'Atlantico. Mentre dietro le quinte si continua a lavorare a un maxi rafforzamento del fondo salvastati, il presidente dell'Eurogruppo Juncker risponde per le rime a Barack Obama, che poche ore prima aveva accusato l'Europa di inazione di fronte all'esplodere della crisi del debito sovrano. No a lezioni che vengono da oltreoceano, ha affermato Juncker, dicendosi contrario all'uscita di uno o due paesi dall'eurozona, e sarcasticamente aggiungeva: non sono stati i disoccupati greci ad aver fatto fallire Lehman Brothers. Rincarava il ministro delle finanze tedesco Schäuble: è sempre facile dare consigli agli altri, io stesso potrei darli al governo americano. Schäuble ha pure attaccato il Club Med: Italia, Grecia, Portogallo e Spagna, sono necessari immediati sforzi di consolidamento del bilancio e riforme strutturali. Oggi giornata cruciale per la Grecia in vista dell'incontro stasera tra la cancelliera tedesca Merkel e il premier Papandreou. Questa mattina i due capi di governo hanno partecipato a una conferenza organizzata dalla Confindustria tedesca. La Grecia è sulla buona strada con il piano di privatizzazioni e le riforme politiche e amministrative, ha affermato la Merkel, che ha invocato una maggiore solidarietà nell'Eurogruppo. Da parte sua Papandreou ha promesso: manterremo tutti i nostri impegni. Da Atene il ministro delle finanze Venizelos rincarava: il governo punta all'approvazione di tutte le misure di austerity entro fine ottobre. Domani o dopodomani tornerà ad Atene la troica BCE Europa FMI, e sempre domani la Commissione Europea dovrebbe presentare la proposta di direttiva per il varo della Tobin Tax. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Europa terza seduta consecutiva di rialzi, con borse tutte in positivo. A Piazza Affari FTSE MIB in crescita del 4,9%, Parigi più 5,74%, Francoforte più 5,29%, Londra più 4,02%. Il rimbalzo delle borse è proseguito anche ieri. Le attese di nuove misure per contenere la crisi del debito, il possibile taglio dei tassi della BCE e il sostegno della Germania alla Grecia hanno portato una nuova giornata di acquisti su listini europei. Parigi e Francoforte hanno guadagnato oltre il 5%, con le banche che sono state ancora una volta protagoniste, grazie ai rialzi di oltre il 10% per le big francesi, Société Générale e BNP Paribas, ma anche per le tedesche Deutsche Bank e Commerzbank, che hanno guadagnato il 12%. A Milano il FTSE MIB è salito del 4,9%, mentre il FTSE All Share ha fatto segnare un più 4,69%. Il forte rialzo del prezzo del petrolio ha spinto Eni, più 5,1%, che ha approfittato anche della ripresa dell'attività in Libia. Bene le banche col resto del settore in Europa. BPM in particolare ha guadagnato il 12,16% nel giorno in cui il CDA era chiamato a fissare le condizioni dell'aumento di capitale e dare il via libera al nuovo statuto per ridimensionare il potere dei sindacati nell'istituto, così come chiesto da Banca d'Italia. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre il default potrebbe essere vicino per la Grecia, c'è chi, grazie a quel default, è riemerso dalla crisi, come sentiamo in questo focus sull'Islanda a cura di Anna Marino. Io vivo e lavoro a Reykjavik. Il vento sta soffiando nella direzione opposta, cioè dal vulcano verso il continente europeo. Era il maggio del 2010 ed eruttò il vulcano che fece puntare di nuovo sull'isola del ghiaccio i riflettori dell'Europa. Una nube di cenere paralizzò i trasporti del vecchio continente. L'Islanda era appena a metà del percorso che la sta portando a risollevarsi dalla bancarotta del 2008. Shock dopo un'epoca d'oro, grazie alla mossa della privatizzazione del settore bancario, che portò a triplicare il livello di benessere degli islandesi, a far lievitare del 900% la borsa islandese e crescere il PIL del 5,5%, e poi di colpo la corona a perdere l'85% del suo valore di cambio sull'euro e le banche ad aver accumulato un enorme debito, 10 volte il PIL islandese. Oggi per l'FMI, che nel 2008 concesse al paese un prestito da 2,1 miliardi di dollari, dopo tagli severi e aumenti delle tasse, l'Islanda è sulla strada giusta. Ma non è tutto oro quel che luccica, perché il paese ha davanti svolte decisive, come spiega la giornalista islandese Thora Arnorsdottir. L'inflazione

un'ottantina di aziende, le altre ad arrivare a 80.000 non è che sia tutto facile per gli altri, insomma, quindi c'è molto da rimboccarsi le maniche per tutti, come in tutti i settori dell'economia in questo momento. Lo sport, in Champions League vittoria dell'Inter a Mosca, i nerazzurri superano 3-1 il CSKA, doppio vantaggio Lucio Pazzini, rimonta russa e nel finale gol del fantasista argentino. Ora il rugby, doveva stravincere l'Italia e lo ha fatto contro gli Stati Uniti e i mondiali in Nuova Zelanda. Gli azzurri si sono imposti 27-10 centrando l'obiettivo del bonus. Per passare ai quarti, domenica la squadra di Mallet dovrà battere l'Irlanda. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Ancora un grazie per l'ascolto e un saluto da Paolo Panceri. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.